continuiamo, continuiamo il discorso che stiamo facendo. Sì. Vai. Allora, adesso siamo ancora qua dentro il foyer, adesso proveremo a entrare in platea. Quello che vi stavo dicendo è appunto la situazione che stanno vivendo anche i lavoratori dentro il Teatro dell'Opera, in conseguenza anche delle ingerenze della Giunta Alemanno, quindi anche le maschere qua dentro svolgono anche una funzione di controllo dei lavoratori. Tra l'altro oggi c'è stato un consiglio di amministrazione a cui i lavoratori hanno partecipato e infatti fino all'ultimo c'era la possibilità che entrassero in sciopero. E poi la cosa è rientrata, ma insomma la situazione è veramente d'emergenza per i lavoratori dello spettacolo tutti, in particolare insomma qua a Roma, ecco, abbiamo comunicazione anche di tagli della Giunta Alemanno che adesso insomma diventeranno visibili, sono stati annunciati e quindi insomma renderanno veramente difficile per tutti noi continuare a lavorare. Insomma quello che a livello governativo è stato emesso, si inizia a vedere a livello locale, si inizia a vedere nei teatri, nelle produzioni, c'è un rischio gravissimo per il lavoro, oltre che ovviamente per il diritto, perché c'è una riduzione in corso tutta la possibilità di accesso ai saperi, alla cultura, alla conoscenza. Senti, no, se puoi ripetere, perché per il punto non si sentiva bene, se puoi ripetere quante siete, il numero di persone. Siamo un centinaio di persone, sì. Di lavoratori dello spettacolo, ci sono con noi due band, la Strada Band e la Malancia, che stanno suonando nel foyer. Sì. E adesso abbiamo aperto lo striscione con cui che abbiamo appeso fuori dal Metropolitan, sulle mani dalla cultura, e appunto stiamo suonando nel foyer. Adesso proveremo a entrare in platea a leggere questo comunicato al pubblico. Il pubblico è un pubblico da prima dell'opera, quindi molte signore impellicciate e tappeto rosso fuori dal teatro. Dico la loro reazione almeno. Guarda, che cosa... che per ora c'è molto interesse, stanno ascoltando, anche perché nella nostra modalità, insomma, il Lit sono sì radicali negli obiettivi, ma ci sono i musicisti che suonano, è un modo anche per tentare di comunicare appunto che i lavoratori della cultura non sono dei privilegiati, ma sono spesso persone che hanno difficoltà nel lavoro e sono poco garantiti, quindi c'è anche un tentativo di comunicare questa cosa. Devo dire che ci stanno ascoltando in questo momento, ora vediamo cosa succede quando cerchiamo di entrare in platea. Va bene, guarda, noi siamo qua in trasmissione, qualsiasi aggiornamento. D'accordo, ti grazie ringrazio. Mille, grazie a tutti, a ciao. Dunque, Radio Onda Rossa 87.900, e abbiamo sentito appunto in questa qua una trasmissione dedicata alla musica classica, diciamo, che ci casca più che a cecio questa comunicazione. Normalmente stiamo scherzando, ogni comunicazione di ogni manifestazione e ogni movimento all'interno della città per reagire a insomma ogni forma di repressione e di condotta contro i lavoratori e le lavoratrici è sempre una cosa ben accetta da questi microfoni, e quindi in attesa di appunto ricontattare la compagna che ci dirà come si sta svolgendo la loro iniziativa, appunto vi rimando il pezzo che vi avevo annunciato dall'inizio, e appunto sempre la Galina Ustovskaya, sempre il concerto per pianoforte e